Innamorati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ma che cazzo, siete da 7 mesi zitti, che zitti, fatemi la cortesia, non ci mettete pure voi perché io già ho la testa con pallone. Ciao Mimmo. Ciao zia. Ma che succede? Non me ne parlare. Ciao nonna. In che senso? A quest'ora si arriva? Allora a quest'ora si arriva, a quest'ora si saluta, a quest'ora te ne vai a votare col teno, va bene? Arrivederci e grazie. Si comincia! Io non so se mai si avvererà uno di quei sogni che uno fa. Ciao nonna! Come questo che... Lei ha... ha una certa età e non era mai venuta allo stadio e dopo una partita, dopo la partita in nazionale mi ha detto perché mi ero mangiato quel gol e mi ha detto allora la prossima volta non ti preoccupare che vengo io allo stadio per la prima volta e segnerai. Allora io gli avevo promesso che andavo da lei se avessi fatto gol e ogni promessa è debito, poi a lei ancora di più. Ciao nonna! Sto mettendo dentro una canzone. Ottimo l'aggancio di Livoriano che cerca il destro, rimpalla, favorisce Florenzi! Alessandro Florenzi segna il gol del 2-0, lo aveva promesso prima della partita. E va in tribuna ad abbracciare la nonna che è qui allo stadio per la prima volta nella sua carriera. Sarà l'aurora. Ciao nonna! Per me sarà così. Pagherà la multa, ma penso che la pagherà veramente con felicità. E questa immagine che vediamo adesso è veramente una delle immagini del calcio bellissima, no? C'è tanta emozione e la nonna sembra veramente felice, commossa e no, vero, veramente sono contento di vedere questa immagine del calcio, è così il calcio. Sarà l'aurora. Pardo? Eccolo. Abbiamo capito. Piantanita che ha detto che il romantico tira quest'anno. L'aurora. E vai. Ma scusa, poi Ramazzotti non è gobbo. Juventino. Sì, No, va bene, dai. I protagonisti di questo terzo weekend di campionato, adesso prima che ci ricoverino tutti i barellieri e quelli con le camicie con le maniche lunghe sono invitati all'800240024. Allora, i protagonisti di questo weekend sono due quasi coetanei, cioè nonna Aurora, nonna di Florenzi. Qualcuno oggi, Valdiseri sul Corriere della Sera ha ricordato che c'è stato un precedente, non era proprio nonna Aurora, Pat Cash nel Wimbledon 87 scavalcò il mondo e l'inferno per andare in tribuna a baciare la moglie, una splendida top model norvegese. In quel caso non finì benissimo. No. I protagonisti di questo weekend sono comunque nonna Aurora, anni 82, e Silvio Berlusconi, anni quasi 79. A Milanello noi aspettiamo più spesso anche il giovedì. Basta. Ma se poi non fanno quello che dico io. Dunque, chi scegli? Ma scelgo Aurora. Voto al Milan che ha giocato. Adesso ti faccio fare i voti. No, c'è quasi il traffico. Ti faccio fare i voti subito dopo il traffico. Va voti bene. Del weekend, sei pronto? Sono pronto. Fantastico. Allora sentiamo quali sono le code in questo momento. Abbiamo causato già diversi incidenti. Sì, sì. Con nonna Aurora. Ieri ero a pranzo con fra gli altri con Marocchi. Con Marocchi, sì. Signor Marocchi, dice della rubrica vota la tua coda preferita. Allora che ci chiami, Marocchi, chiamaci e di non ti nascondere. 400024. Giancarlo Marocchi. Allora, se sei un fan della rubrica vota la mia coda preferita, moccia chiami 800240024 e vediamo se è vero. Vai. Ciao nonna. Tutti convocati. I know go in my home and cry because I know you have money, maybe sometimes have problem. No, it's continue. Sometimes remember, it's loss, winner, but maybe today is no winner. I come here and speak the same thing. This guy no have respect good me, no have respect for Creta, no have respect for everybody. This guy for sign, for speak, for nothing. Ma cosa sta dicendo Gattuso? Che ha detto Gattuso? Sono tutte cazzate. Com'è in greco? Malachia. Malachia. Tutte cazzate. 800240024. I nostri ascoltatori sono veramente perfidi all'infinito. C'è Paolo su Twitter che scrive: Florenzi è munito e multato, speriamo non diano il daspo alla nonna. Veramente cinico. Nonno Florenzi, prossima presidente della Federcalcio, coetanea di Tavecchio, ma più simpatica, scrive Sara. Allora, Pardo, velocemente voto alla Juventus, facile. 9. Roma? 9. Così tanto. Ma tutto il Roma Cagliari 2-0. No, vabbè, per, c'è il weekend, no. Per il weekend 8, però la serenità con la quale. No, vabbè, weekend, 8, non c'è, 8. Milan. Weekend, vabbè, Juve 9, Roma 8, vai. Milan 5 e mezzo. Berlusconi. Senza voto. Inter 6. Fiorentina 7 e mezzo. Verona 8. Udinese 7 e mezzo. Napoli 4. Io mi chiamo Benizio Raffaele e sono allenatore di Napoli Ulè. Io mi chiamo Raffaele Benitez e vinco le coppe del 2003. Sono tutte cazzate. Faccio mai catenaccio, di avversari riducono strazio. Se sei davvero speciale, con calma glaciale parlate con me. A me passano i quattro campioni. Eccolo il Napoli, quanti cambi, quanta differenza rispetto alla sfida in Europa League contro lo Sparta Praga. Raffaele in porta, difesa con Maggio, Albiol, Koulibaly e Britos. Centrocampo con Gargano, esordio assoluto per il nuovo acquisto David Lopez, arrivato il 31 agosto dall'Espagnol. Zuniga giocherà alto a destra, Michu esordio da titolare per lui con la maglia del Napoli, Insigne a sinistra, Higuain a centravanti, fuori contemporaneamente Callejon e Mertens. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo scettissimo immenso io chiedo consenso, venite tra me. Parte di Natale a spiovere, con le palle la tocca, poi devi azzurro in rete, il vantaggio dell'Udinese, Danilo 1-0, Danilo, il vantaggio dell'Udinese. Con rispetto ma anche questa sì, e per rimanzare venite tra me. Inter aveva la febbre, era chiaro. Altri dopo giocare giovedì, giocare una partita in trasferta, e domenica qualcuno, le gambe non erano allo stesso livello, e fare una scelta di questo tipo con giocatori come Insigne, come Micio, come Higuain, Zuniga, credo che per giocare qui devono essere a posto, e ripeto che la squadra ha avuto il controllo della partita fino a che abbiamo subito il gol. Calmo, dimmi. Allora saluto e ringrazio Maurizio Nicita, prestigiosa penna e anima della Gazzetta dello Sport. Ciao. Ciao, caffè pagato. Caffè pagato anche a Pardo, Sì, sì, sì. Doppio caffè. Caffè in sospeso, c'è questa cosa. C'è ancora questa cosa Napoli, sì, meravigliosa. Sì. Ed è stupendo, è un fatto di civiltà. Vabbè, mica solo a Napoli, cioè vale anche qui, vale anche qui. No, però c'è, c'è questa tradizione del caffè in sospeso. Ma Napoli spieghi cos'è il caffè in sospeso, che è una cosa bella. Ma spesso chi arriva lascia magari a rotonda al momento di pagare la cassa e lascia il caffè pagato in sospeso, che poi chi sa al bar che magari non può permettere sempre di pagare il caffè lo offre, quindi è un modo in cui anche chi offre non per forza debba conoscere chi usufruisce di quel piccolo vantaggio. Bello, è un fatto di civiltà, ripeto, ma esiste a Napoli da una vita, come ancora esiste il credito dai piccoli commercianti, ecco, questo è un fatto di civiltà. Sì, fatto di civiltà, certamente. Maurizio, allora, stiamo parlando del grande imputato. Pardo ha affibbiato un corretto 4 al Napoli. La sensazione è che Benitez abbia perso la maniglia su questa squadra, che quello spogliatoio sia qualcosa di difficile. Ancora io penso e ripenso alla vacanza che Benitez si è preso in maniera inedita, quantomeno nel calcio professionistico. Da un lato c'è un mercato, ma secondo me quella del mercato è quasi un'argomentazione pretestuosa, perché guardi questo Napoli in campo, vedi i giocatori, leggi le formazioni e i conti non tornano. No, che non tornano sicuramente, ma a me piace ricordare una frase, l'abbiamo scritto sulla Gazzetta quando è emersa questa vacanza che ha lasciato tutti stralunati e perplessi di Benitez, tra l'altro vacanza di 2 giorni che venivano dopo altri 2 giorni a Nyon per la famosa riunione annuale dei tecnici di Champions e dintorni, riunione a cui è andato un certo Ciolo Simeone dicendo semplicemente: io non posso permettermi di perdere 3 allenamenti. Settimana successiva, con quei 3 allenamenti seguiti, l'Atletico ha battuto il Real, il Napoli ha perso col Chievo. Forse non è un caso tutto questo, cioè l'applicazione, che non significa solo quelle 3 sedute, significa concentrazione, l'attenzione mentale, il segnale che dai, il manico che tieni della squadra. Sicuramente. Quella settimana il Napoli aveva tutti i nuovi arrivi in sede a Castelvolturno, perché non erano stati convocati in nazionale, chi per un motivo, chi per un altro. Quindi era la settimana giusta per lavorare e inserirli. Mi chiedo cosa abbia provato Diego Lopez, arrivato un mese fa, dal momento in cui ieri si è trovato catapultato titolare. Sì, certamente. Esempio, tra l'altro, guarda, Pardo ha commentato il Napoli per Mediaset a stretto giro di posta, cioè in Europa League una partita non bellissima del Napoli, che peraltro il Napoli ha cominciato in salita, che è riuscito a rimontare, ma senza dare la sensazione di aver svoltato da qualche parte. E poi ieri a Udine. Sì, io... No, guarda, io sono rimasto sorpreso ovviamente dal turnover di ieri, ma secondo me poi alla fine certe cose ci potevano anche stare. Quello che non mi ha convinto è la scelta, il centrocampo è un centrocampo piatto, un centrocampo senza un minimo di iniziativa. È vero che Hiller aveva la febbre, Jorginho stava ancora male, però... Però De Guzzo quando non ci poteva stare, per esempio. Ecco, per esempio, per fare un nome, no? Tanto più che non l'avevamo visto niente in lo stesso Enrique non è più funzionale al gioco di Benitez, già essendo inserito da gennaio. Sì, ma io guarda, sono abbastanza perplesso dalle scelte che sta facendo. Mi sembra in qualche modo anche delle scelte, non voglio dire provocatorie, perché io non penso che nessuno voglia rischiare di perdere apposta contro il suo interesse. No, ma scusa, Pier, ma non può esserci una sotterranea, una psicologica? D'altra parte, con Benitez, questo l'abbiamo già visto, una sorta di mutuo confronto con De Laurentiis: questi mi hai preso, sì, e questi faccio giocare, e allora ti sfido facendo giocare questi, che sono quelli che tu mi hai dato? Non lo so, hai invento? Io penso di sì, penso che ci possa essere questa dinamica, e qualcosa non funzionasse tra allenatore e presidente lo sappiamo ancora da prima del match col Chievo, poi in più c'è l'elaborazione del lutto dell'uscita dalla Champions League, che ovviamente è qualcosa di molto pesante, lo sarebbe in qualsiasi squadra, non soltanto a Napoli. Però insomma le domande che facevamo da quest'estate sulla campagna acquisti rimangono assolutamente aperte, assolutamente così sul piatto, sul terreno, e vedremo come andrà a finire. ma insomma mi sembra che questa squadra dovesse risolvere dei nodi difensivi e non mi pare che l'abbia fatto, dovesse risolvere dei nodi al centrocampo e non mi pare che l'abbia fatto, e davanti in un momento nel quale c'è magari un po' meno di ispirazione, magari Mertens non lo lascia in panchina, poi finisce che paghi, sì. Tutto questo tra Chievo e Udinese, che il Napoli abbia fatto 0 punti, è assurdo, certo, questo va detto, insomma, però sai com'è la legge di Murphy, no? Le tragedie vengono sempre, c'è sempre un motivo di fondo, cioè il Napoli non meritava di fare 0 punti, ma il Napoli non è né la Juve né la Roma, quindi da questo punto di vista, no, beh, il problema è che in questa prima stagione di essersi indebolita. Guarda, se mi consenti una, certo, Maurizio, un'integrazione perfettamente in linea col dottor Pardo, che questa squadra ha perso l'anima. Cioè non ha un'anima. Bravo, hai ragione. Perché hai ragione. Si può perdere una partita, ma anche il modo in cui si perde, no? Ci sta. Questa squadra ha perso un'anima da tempo. Quando risolve le partite vengono risolte dai guizzi tecnici, di valore tecnico dei singoli giocatori, non di squadra. C'è una grande difficoltà nella fase difensiva. Io ricordo nell'unica partita vinta dal Napoli quest'anno col Genoa, una squadra che per almeno tre quarti d'ora a cavallo dei due tempi è stata in balia del forcing del Genoa, e quando arretra rincula, non difende, rincula. Si ha la sensazione che non si aiutino i giocatori, nessuno, non dico sappia cosa deve fare a posto dell'altro, ma non, sì, non si vede un'organizzazione difensiva, probabilmente la proveranno, non ci riusciranno a farla, io non mi permetto di entrare nel merito, non faccio l'allenatore, eccetera, ma questo è quello che vediamo, non c'è un'anima nei momenti di difficoltà, c'è l'incazzatura, c'è il nervosismo, che non è la stessa cosa, non è una reazione di gruppo, di squadra. Questa squadra ha perso un'anima al di là dei fattori tecnici, tattici, eccetera. E su questo penso che Benitez abbia una sua responsabilità, perché come è vero che lo abbiamo applaudito, perché io ricordo il Napoli Borussia Dortmund, che forse è la partita più bella della gestione Benitez a Napoli, una partita tatticamente, però lì forse c'è il tarlo di tutti i problemi del Napoli. Faccio una gran partita per 70 minuti, sono pure in superiorità numerica e becco su 2-0 il contropiede e certo, mi faccio l'autogol, certo, da solo. Certo. Zuniga, ricordo che senza quell'autogol di Zuniga il Napoli sarebbe arrivato primo nel girone, sarebbe, sì, forse cambiata la storia di una stagione, ma non è attaccarsi all'episodio, è perché poi il Napoli... No, ma non è nemmeno attaccarsi agli infortuni, agli indisponibili o a quelli che sono indietro di condizione. Lì c'è qualcosa che non funziona, tout court, e si tratta di capire cos'è. E secondo me nel rapporto tra il presidente, l'allenatore e la squadra, ed è lì qualcosa che non funziona e che noi non conosciamo perfettamente, almeno a guardarla da fuori. Maurizio, ti ringrazio. Grazie davvero. Grazie a voi, e vi ricordo solo una cosa. Che dilla. 2009, questo stesso periodo, parte sempre per gli Stati Uniti De Laurentiis, sì, parte in silenzio, lascia Donadoni, torna via Donadoni prima Mazzarri. Nell'era De Laurentiis. No, è un presidente che poi se capisce che le cose non vanno, le cambia al volo, non ci pensa più di tanto. Quindi, sì. Sì. Spero una svolta, cioè che Benitez riprenda questa squadra e non dica delle cose tanto per la cronaca è nell'era De Laurentiis una partenza così deludente l'aveva fatta Roberto Donadoni, come giustamente ha ricordato Maurizio Nicita, anche per lui una vittoria prima giornata, due sconfitte di cui una proprio con l'Udinese. L'attuale allenatore del Parma si sedette sulla panchina azzurra per altre 4 volte, prima dell'esonero e poi dell'arrivo di Mazzarri. Ed era tutt'altra squadra. Grazie Maurizio, alla prossima. Grazie, ciao, ciao, a voi. 800-24-0024, Borsa, poi torniamo a Pardo. Sì, è diverso dalle altre partite, no? Questa partita era sotto controllo e con una pala morbida in aria abbiamo subito un gol e abbiamo perso una partita che era, ripeto, sotto controllo fino a questa. Non avevo visto a Rafael anche fare nulla, no? Mi dispiace per questo, perché questo tipo di partita è una partita che stai pareggiando, alla fine se puoi vincere con la qualità è stato lo contrario, no? Un errore e abbiamo pagato. Convocati. Carlitos Tevez, quiero agradecerte los hermosos momentos que nos haces vivir a todos los que nos gusta el fútbol. Además de esta alegría y el coraje con que enfrenta la vida, esta canción es para vos, hermano. sarebbe Carlito. Carlito, tra l'altro è Carlitos. Non vero messaggio, cominciamo a non sbagliare. Vero messaggio quello, sinceramente, vero messaggio. E chi lo sa, voi non ci credete mai quando io parlo di Mr. X, Mr. Y, pensate che scherzo. Va por mi sangre toda esta alegría y el fútbol me ha dado esta gran ilusión. Suona tiro. Eccolo! Carlitos Tevez! Un fuori classe, un giocatore fortissimo. Marchisio, quasi zona tiro. Ci pensa ma non lo prova. Poi Tevez scivola, la mette dentro comunque. Pogba gira ancora. Carlitos Tevez, sempre Tevez, ancora la pace. È lui l'uomo gol della Juve. Non le ha tolto il sorriso questo Tevez alla Juventus? No, ma tolto il sorriso no, anche perché noi lo sapete benissimo, mi spiace di essere ripetitivo, noi abbiamo 5 attaccanti che qualitativamente e numericamente sono più che sufficienti, quindi è chiaro che non essendo partito nessuno non potevamo andare avanti nella trattativa, l'ho detto da tanti giorni, non è mai. Era del Milan, lo sappiamo, poi per questioni di cuore è andato da un'altra parte e adesso lo punisce tutte le volte, ma su Tevez la domanda è, Pardo, come fa a giocare con un ciuccio da bambino per 70 minuti infilato nelle mutande? Avrà messo l'accetto, non lo so. Ah, guarda. Questa non la so nemmeno io. No, però, allora, la Juventus ha fatto la partita che doveva fare da grande squadra. Mo, veniamo lì, fateci vedere voi che siete carichi, voi che avete sogni, voi che avete un presidente che ha già ricominciato a pronunciare la parola scudetta. Vediamo lì, vediamo cosa sapete fare. Praticamente niente. E allora facciamo noi, con quelli che abbiamo, con i nostri campioni, minimo sindacale 1-0, Juventus che vince. E Berlusconi che già dice no, non fanno quello che dico io e allora le cose non vanno bene. Finita la magia. Sì, beh, la sintesi è questa. È stata la vittoria della squadra più forte, più consapevole, più sicura di sé. Una squadra che si è ritrovata improvvisamente timida. Ecco, la cosa sorprendente è stata proprio questa, secondo me, della partita del Milan dell'altro. In qualche modo contro la Juve ha contraddetto tutto ciò che di buono e anche di cattivo, devo dire, si era visto nelle prime due giornate, no? Nel senso che abbiamo visto una squadra molto champagnona, molto divertente, con delle lacune difensive profonde, ma comunque con tanto talento davanti. Contro la Juve abbiamo visto invece una squadra frenata improvvisamente. Sì, ma perché? Cioè, avevi il credito per giocare davanti a uno stadio pieno che ci crede, tutto sommato hai l'umore favorevole della gente, hai la... cioè, se il Milan avesse giocato quella partita perdendola con la Juventus, pur perdendola, ma l'avesse giocata, penso che nessuno avrebbe detto nulla, no? Nessuno avrebbe mosso credito, cioè avevi comunque il favore della... Sì, questo è evidente, però è anche vero che sono discorsi astratti, poi c'è anche l'avversario, c'è anche la forza dell'avversario, cioè noi non sappiamo se questa timidezza sia stata una scelta in assoluto del Milan, non credo, mi verrebbe da dire che non credo, credo che sia stato invece frutto di quello che poi in campo è successo e delle situazioni che si sono create, della incapacità, dell'impotenza nel riuscire a essere particolarmente pericolosi. Detto questo, insomma, io... sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto stamattina o ieri sera, non lo so, Barbara Berlusconi, cioè la distanza fra il Milan e la Juve rispetto a un anno fa, ci voleva poco direte voi, si è sicuramente ridotta. Il Milan deve continuare a pensare positivo, la partita domani a Empoli, nella quale deve fare assolutamente 3 punti, se fa 3 punti domani a Empoli poi si riaffaccia al campionato nel prossimo turno con la serenità di chi comunque è pienamente in linea con tabelle. Ma certamente. Certo, è proprio per questo che ti dico, giocali in un'altra maniera, cioè gioca Lo so, ma non è del tutto una scelta, secondo me, è anche la forza dell'avversario che ti condiziona, insomma. Sì, la forza dell'avversario che ti condiziona, certamente, è tutto vero, giochi con una squadra più forte, tutto quello che vuoi, però è la faccia, il body language, lo spirito del Milan che mi aspettavo differente, non il risultato, torno a ripetere, mi aspettavo differente la prestazione del Milan come... come anima. Prima di parlare con gli ascoltatori che sono già moltissimi, 800 24 00 24, Inter. Galliani l'altro giorno aveva detto questa dichiarazione sul Corriere della Sera: Milano sta tornando. Sta tornando, dove va? L'Inter, no, no, allora, mentre il Napoli singhiozza e basta, l'Inter cresce a singhiozzo. Non starei a, sì, sono d'accordo. Insomma, a enfatizzare il pareggio di Palermo. Sono d'accordo, a parte che c'è comunque una recriminazione arbitrale, delle cose che non hanno funzionato. Ha ragione Mazzarri quando parla del primo gol che l'Inter si è fatta da sé, e in questo è abbastanza sorprendente perché Vidic era uno di quelli sui quali io avrei scommesso veramente. Ma io lo faccio ancora, io ci scommetto ancora su Vidic. Ma infatti, però sicuramente ha iniziato male fra il cartellino rosso di Torino e la papera di ieri, insomma, pesa. No, ma io ti dico che a me sembra interessante il progetto nell'azzurro, e non penso che il pareggio di ieri, certo, ridimensiona un po' la classifica, perché è chiaro che stai a meno 4 dopo 3 giornate. Dal punto di vista dell'entusiasmo, che a Milano sponda Inter è importantissimo, perché Mazzarri chiaramente non ha quel feeling naturale che ha per esempio Pippo Inzaghi con i tifosi del Milan. Sì. Mazzarri dopo la stagione scorsa, quest'anno si deve guadagnare tutto, e allora certo, c'è bisogno di una partenza molto forte. Quindi da questo punto di vista sicuramente non aver vinto ieri è un ridimensionamento, però mi sembra che il progetto ci sia, mi sembra che ci sia anche il coraggio di giocare comunque con una formazione offensiva. E secondo me è una strada che porterà lontano l'Inter, dove per lontano si intende la possibilità di iscriversi alla lotta per il terzo posto e per lottare alle spalle delle due che mi sembra abbiano quantomeno una sicurezza diversa. Alessandro da Padova, poi ci fermiamo per il traffico. Buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno e vi ringrazio per la partecipazione, vi ascolto tutti i giorni dalla macchina. Io premetto che sono juventino. Volevo fare solo un paio di battute brevemente. Allora, una per quanto riguarda la Roma, che secondo me è nello stesso esatto stato di forma di come aveva terminato il campionato precedente, quindi complimenti alla Roma per come sta giocando, una squadra molto compatta. Per quanto riguarda la Juve e l'allenatore, il suo allenatore Massimiliano Allegri, io direi questo: in questo momento, come ho sentito in qualche trasmissione ieri, non vorrei esaltare un po' troppo questo allenatore, che ritengo un buon allenatore, e che purtroppo negli ultimi 2 anni, non per cause diciamo dovute a lui, non ha avuto grossi successi proprio per i motivi della politica commerciale della squadra del Milan. Beh, anche un po' per cause dovute a lui, anche un po' per cause dovute a lui. Sì. Infatti è per questo che io ho voluto fare questo intervento. Per conto mio, l'allenatore Allegri si è ritrovato una squadra quest'anno, lasciatemi usare un termine automobilistico, chiavi in mano, pronta all'uso, meglio ancora di come l'aveva lasciata Antonio Conte all'ultima giornata del campionato. Ne parliamo dopo il traffico. No, leave. Leave what? Leave what? It's too easy for me, leave. Every day in the last 2 weeks call me 5-6 president for change teams. No, me stay here. Tutti convocati. Ricordiamo che l'allenatore, se alla terza perde, la manda via di sicuro. Sì. Oggi abbiamo mandato una protesta alla Gazzetta dello Sport. Per cosa? Perché titolava oggi, diceva Iachini in bilico, c'era già non so chi in tribuna, no? Allora abbiamo detto di smetterla, perché... Cioè lei si è arrabbiato perché non è in bilico, l'ha già licenziato, cioè, in quel no, senso. No, è in bilico di sicuro. Quindi lei... Però vogliono fare i titoli e invece... Scusi Zappa. La Gazzetta è la Gazzetta. Sì, certo. Che possiamo... Scusi Zappa, quindi lei dice che se Iachini perde anche la prossima partita lo conferma. Anche se perde le prossime 5. Attenzione, no, Zappa, non è vero. Attenzione. Le prossime 5. Allora, Piff... Non le perderà, ma anche se le perdesse, no, Iachini rimane allenatore tutto l'anno. Della primavera. Della prima squadra. La pressione di Vasquez, pasticcio di Balarete, pasticcio di Vidic, e va in vantaggio con Vasquez e la Palermo, il gol del Mudo. Accelera Kovacic, prova a inventare, si stacca Osvaldo, pallone ritorno ancora Kovacic, parte il tiro, rete, tre gol di Kovacic, ha pareggiato l'Inter al 42esimo. Ci è mancato solo il gol, che poi bene o male su Piazzati così l'avevamo anche fatto. Ho osato, ho provato a mettere la difesa a 4, si è cercato proprio fino alla fine di vincere, ci sono mancate le energie, il Palermo che era più fresco nel finale abbiamo rischiato addirittura di perdere. Se si vuole fare davvero il salto di qualità bisogna capirla in fretta queste cose e ottimizzare tutto, insomma, bisogna lavorare sulla mente, sulle gambe, sugli allenamenti, sulla concentrazione. Siamo l'Inter, bisogna essere questi sempre, ogni partita. Allora Pierluigi, qualcosa da dire sull'intervento dell'ascoltatore di prima relativa ad Allegri eccetera? O passiamo all'Inter? Posso anche essere d'accordo, solo che questa cosa bisognava pensarla prima, cioè il 16 luglio in pochi pensavano che la Juve potesse partire così, per cui adesso non è che è merito di Conte o della squadra che gli è stata lasciata prima. Allegri merita di prendersi l'applauso per una partenza che è stata lanciata, che è stata assolutamente controvento, perché c'era comunque una parte dell'opinione pubblica bianconera, sì, che era molto scettica, qualcuno rimane scettico ancora, insomma, la dimostrazione è che poi alla fine non bisogna giudicare gli allenatori dalle etichette. Allegri ha sicuramente un'aria magari meno vogliosa di successi rispetto ad altri allenatori, ma magari sarà un martello pure lui, o magari allenerà la squadra con dinamiche logiche psicologiche diverse, logiche psicologiche, certo, fa schifo, insomma, però i risultati gli danno ragione. La domanda sulla Juve secondo me rimane sempre la stessa, e cioè quella, l'eventuale punto interrogativo può essere legato al logorio fisico di questi anni, fisico, psicologico, sì, e forse alla fine ci ritroveremo fra qualche mese a dire che è stato un bene per la Juve cambiare, perché magari Allegri è un allenatore da questo punto di vista un pochino più morbido, che capisce un pochino, certo, meglio, certo, un certo, certo tipo di certo, gente, lascia i giocatori un po' più liberi di respirare dopo 3 anni nei quali sono stati veramente delle macchine. Certamente. Alessandro Bolzano, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, dimmi. Vorrei parlare in merito alle intenzioni del dottor Berlusconi. Sì. Credo che lui abbia ragione di pensarla sempre positiva la questione Milan quando è in campo, però dall'altra parte noi sappiamo che c'è un'altra squadra. La squadra come la Juve di ieri è chiaro che è superiore al Milan, però penso che Inzaghi abbia commesso un errore, perché dal centro dell'area al centrocampo sempre giù Marchisio o Bonucci a portare la palla, e lì non so perché lui non sia intervenuto. Ma a prescindere da questo, che io non sono un tecnico, il problema è, voi non ditemi poi che è sempre la storia degli arbitri, se Cáceres fosse stato ammonito sull'intervento di Menez, sì, se Lichten fosse stato ammonito sull'intervento di De Sciglio, se Montari fosse stato ammonito sull'intervento che ha fatto, sì, la partita andava in una maniera completamente diversa, perché Ho capito, ma è stato interpretato in quella maniera lì. Allora i primi due non sono stati ammoniti per la Juventus, quell'altro è stato ammonito per il Milan. Mi è sembrata una scelta, un'interpretazione arbitrale, che non credo proprio abbia inciso sulla partita, credo il senso sia un altro. No, ma bisogna secondo me cogliere, premesso che il calcio, come diciamo sempre, è liquido, è legato agli episodi, mi viene in mente l'esempio del Napoli, che chiaramente poteva, con delle situazioni diverse, non dal punto di vista arbitrale ma dal punto di vista degli episodi, adesso avere probabilmente 3-4 punti in più, tra il rigore di Higuain e il palo, cioè alla fine il calcio è questione di centimetri, sì, poi l'Inter anche ieri sera ha avuto altre proteste, quel di Riccardo, però voglio dirti, quindi chiaramente gli episodi incidono e poi finiscono anche per fare opinione, però insomma bisogna cercare di vedere che cosa c'è dietro al risultato. Dietro al risultato secondo me c'è stato un Milan improvvisamente timido, e una Juve che ha mostrato grande personalità, consapevolezza dei propri mezzi. Consapevolezza, personalità, la Juve non ha fatto niente di... Poi il Milan poteva pareggiare, cioè qualsiasi partita che fino al 70esimo è sullo 0-0, certo, Piano. Cioè, no? Certo, ma aveva l'aria da 0-0, anche se la Juventus l'ha tenuta in mano, ha tirato di più in porta, il Milan era molto basso, possiamo dire un sacco di cose. È stata una brutta partita con un'aria da 0-0 che la Juventus ha vinto, perché è più forte, perché ha trovato il colpo di uno dei suoi campioni, ma non mi sembra che ci siano molte analisi da fare se non l'atteggiamento del Milan, ed è stata questa probabilmente la cosa più sorprendente della serata. Tiki Taka stasera per chi, Pier? Ma stasera, a parte che c'è un gineceo, cioè ormai Strano, stiamo perdendo proprio il controllo della situazione, abbiamo anche Matteo Dotto che si avvicina, è che gente al gineceo. abbiamo la signorina Satta, la signorina Chiabotto, che viene a presentare il libro Di notte contavo le stelle, pare siano le stelle della Juve. Valentina Mezzaroma, esperienza. Oh, me la saluti con affetto. Vieni a trovare. Saluti con affetto. C'è anche la signorina Adua Villa. Salutamele che detto... con grande affetto. Ecco, poi c'è Francesca Barra, poi c'è lo Scanzi Telese, che però è disperso, desaparecido in Italia. Poi c'è Andrea D'Amico, che ci dovrebbe portare almeno il telefono Rino Gattuso. Poi stiamo facendo di tutto per avere Stramaccioni, anzi, adesso ci siamo messaggiati con Stramaccioni, chiedo all'ufficio stampa dell'Udinese, ma portiamo Stramaccioni stasera a Tiki-Taka collegato, parliamo di Udinese per mezz'ora, se non ne parliamo oggi, ma quando ne parliamo? Con tutto il rispetto. Io e te ne parliamo domani, perché se il GR mi chiudo molto volentieri. Ciao Pier, ciao. Snai, certo, Bet Corner e poi GR. Quote e pronostici. In campo Spezia e Carpi questa sera nell'anticipo della quinta giornata di Serie B, con calcio d'inizio alle ore 20:30. I padroni di casa hanno 7 punti e la loro vittoria è quotata da Snai 2:20. Il Carpi invece ha 6 punti in classifica e una vittoria di biancorossi è quotata 3:60. L'X invece per questa partita è a 3. Alle 20:45 in campo la Liga con Getafe Valencia, l'1, la vittoria del Getafe è quotata 3:80. L'X è a 3:30, il 2 invece è quotato 2. Questa settimana in campo anche la Coppa di Lega d'Inghilterra. Domani sera c'è la Capital One Cup con 16 partite, tra cui Liverpool-Middlesbrough. L'1, la vittoria dei Reds, è quotata 1:40. L'X è a 4:50. Il 2, con il successo del Boro, che ha avuto un passato glorioso anche in Premier League, è quotato 7. Gioca anche l'Arsenal contro il Southampton. L'1, la vittoria dei padroni di casa, è quotata 1:75. L'X è a 3:75. Il 2, con il successo del Southampton, è quotato invece 4. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi, a risentirci a domani. Tutti convocati. Because Ofi is no Real Madrid, is no Barcelona, is Ofi small team and many problems. I want my players play with balls and with that. This I speak with my players. Thank you. Gattuso, Massimo da Treviso, buongiorno. Buongiorno, grande Gattuso. Gattuso, sì. Sono tutte cazzate. Sembra, molti hanno detto sfoga la Trapattone, ma sembra più sfoga la Malesani, non soltanto perché trattasi di ambito greco, insomma. Dica. Ecco, e a proposito di sono tutte cazzate, a me, io sono juventino e non sono mai stato molto convinto della scelta di Allegri, però sentire adesso che le cose vanno discretamente bene perché si è trovato la squadra già pronta e fatta, sinceramente la trovo una cosa molto molto scorretta. Cioè, la bravura di Allegri secondo me è proprio quella. Io ero venuto alla partita sabato e ho visto una squadra che ha giocato con una tranquillità e con una consapevolezza dei propri mezzi che sinceramente io anche l'anno scorso in partite di questo tipo in trasferta non avevo visto. E gioca anche in maniera diversa, Tevez gioca un po' più arretrato. Sì. Non so, secondo me, che per ora do dei meriti ad Allegri. Allegri è un allenatore equilibrato ed è quello di cui la Juventus aveva bisogno, cioè dopo il grande uragano, il grande stress di Conte, aveva bisogno di un allenatore equilibrato. Lui è stato molto bravo, ma questo a me non sorprende, lei ha ragione, condivido quanto dice. Allegri è stato molto bravo nel prendere tutto il possibile, nel recuperare tutto il meglio di quanto, del tanto che aveva lasciato Conte, pian piano inserendo qualche sua novità, qualche sua idea di gioco, dando comunque alla squadra una tranquillità maggiore. Adesso sappiamo come la Juventus sia rimaneggiata, no? Visto che mancano Vidal rientrato, manca ancora Pirlo, sono metà di quel centrocampo che è la forza della Juventus. Ebbene, Allegri è stato bravo anche nel far fronte a questa emergenza e pian piano nell'inserire qualcosa di suo. È un bravissimo traghettatore, ma non nel senso che porterà la squadra a qualcun altro, nel senso che ha preso una squadra molto stressata dal punto di vista emotivo e nervoso e l'ha ricaricata e le ha dato un po' più di tranquillità. Secondo me, dopo tanti anni nei quali siamo stati tra virgolette sottobattuta costantemente, anche l'avvento, il suo avvento con i suoi modi è un qualcosa che può tornare molto utile a noi se dimostriamo di essere dei giocatori e una squadra responsabile. E questo lo dice Gigi Buffon, non l'ho detto io. Francesco Scafati, buongiorno. 800240024, lunedì di tutti i convocati. Buongiorno Francesco. Buongiorno. Volevo dire, la Juve è forte, nessuno sì. mette in dubbio. Però non deve avere bisogno degli aiuti a via, a 6 minuti alla fine, secondo Graziani, che è un rigore contro la Juve, poi deve perché l'arbitro Graziani, o anche Mazzone, sono degli arbitri chiaramente juventini, questo la deve sapere, perché si trova da di rigore, mi dica. Come hanno fatto un in Napoli la Supercoppa a Perinze, si ricorda. Perché il sole e Mazzoleni sono chiaramente juventini, questo lo deve sapere. Contro le neutrali, non più, ma varie volte. Mi dicono contro le non si dà, il sole non lo fa mai contro la Juve. E così anche Mazzoleni, mi dica. Cos'è sarà l'aurora? No, ma allora secondo me non c'era alcun rigore contro la Juventus. Torno a ripetere, poi ognuno la guarda con gli occhiali che vuole, insomma, la partita. Gli occhiali del tifo, quelli della passione, ma come è giusto che sia, non c'era alcun rigore contro la Juventus, se ci riferiamo all'episodio di Menez, che è stato vagamente toccato ed è svenuto in area di rigore. Io credo che insomma che l'arbitro abbia fatto benissimo a non dare un rigore che non ci stava. Non ho visto un arbitraggio condizionante nella partita di sabato sera a Torino. Poi ognuno ci vede dentro alle partite quello che vuole, come bello e giusto che sia. Giro di formazione, non parte Nico Rosberg, non parte Nico Rosberg, wow, e questo colpo. È il primo colpo di scena del Gran Premio di Singapore, con Nico Rosberg leader del campionato con 22 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, che rimane piantato lì. Qui rientro di Rosberg, molto molto lento, si avvicina, gli cambiano il volante, spegne la macchina. Arriva così la vittoria numero 29 in carriera per Lewis Hamilton, che conquista per la seconda volta il Gran Premio di Singapore e diventa leader con 3 punti di vantaggio, e festeggia così del campionato del mondo, 3 punti di vantaggio sul compagno di squadra Nico Rosberg. Va a chiudere in seconda posizione, una grande gara, la gara della riscossa, Sebastian Vettel terzo sul podio, le 2 Red Bull anche con Ricciardo. Lottando per il podio fino all'ultimo, forse come dico la safety car qualche volta ti aiuta, qualche volta non ti aiuta, oggi è stato uno di quei giorni, ma lottando con quelli davanti è un'altra sensazione molto, molto migliore. Leo Turini, mi sei mancato. Buongiorno caro Palizzoni, io sono molto felice di partecipare a questa puntata speciale di Focus Economia. Di Focus Economia. Dedicato a tutti insomma i guai della Ferrari, però posso parlare un attimo del traffico. Del traffico? Dire, sì, sulla Piero Cormano. Da Piero Cormano. È perché sta guidando Raikkonen una 500 Fiat di Marchionne, ma attenzione sul raccordo anulare all'uscita dell'altezza di Casalotti Boccea, c'è una multipla a metano in panne, è quella che la Fiat ci ha fatto sapere che Montezemolo lo può ancora usare per un anno, auto di servizio, forse avete letto il comunicato, fino al 2015, quindi è in panne una multipla a metano dell'ormai ex presidente avvocato Montezemolo. E diamo questa comunicazione di servizio, non è vero, eh? Vi ho dato queste informazioni molto importanti, fondamentali sul traffico, dopodiché niente, io metterei Jim Morrison, This is the end, my friend. Siamo i titoli di coda per quanto riguarda Alonso in Ferrari, a meno che Marchionne non ci stupisca e abbia un asso nella manica del maglione, sì. Pullover, è vero? Ne dubito, ne dubito. Le sensazioni che abbiamo avuto tutti nei weekend di Singapore. Adesso Fernando non ne possa più, insomma, no? Ecco, beh, tendenzialmente sì, ma io ecco. direi anche che forse qualche ragione ce la può avere, no? Allora qui bisogna fare un discorso alla Marchionne, se lei me lo concede, caro Barisoni. Prego, questa bella puntata straordinaria di Focus Economia anticipata. Allora, Marchionne non è ancora ufficialmente presidente affari, lo diventa il 13 di ottobre, però si trova tra le mani da subito questa patata bollente. Alonso ha tutto il diritto, dopo 5 anni, di essere legittimamente sfiduciato, di non avvertire più una particolare convinzione sulle risorse della casa di Maranello, perché se vogliamo essere sinceri e onesti, in 5 anni non ha mai avuto a disposizione la macchina più veloce. Lui ha sempre dato più del 100%, tanto di cappello. Se però è arrivato alla persuasione definitiva che con la Ferrari comunque nel breve e medio termine non avrà la chance di diventare campione del mondo, è giusto lasciarlo libero di andare. Se invece, qui vorrei citare Barisoli, come diceva Cuccia in Mediobanca, Alonso pensa che i titoli mondiali, guardate, si contano ma si pesano anche, come diceva Cuccia delle azioni, nel senso che vincere con la Ferrari, a me dispiace per i fan di Red Bull, McLaren, Mercedes, comunque assicura un prestigio diverso. Io mi rendo conto che uno dice, ah, ma 4 mondiali con la Red Bull, no, cosa vuoi? Ho capito, però la Ferrari è la Ferrari, questo nel mondo. Negli ultimi 40 anni con la Ferrari hanno vinto Lauda, Scheckter, Schumacher e quello che adesso è bloccato sulla Piero Corbano, Raikkonen, per dire la difficoltà della cosa. Se Alonso capisce questo, allora può scegliere di restare fino a fine carriera, ma deve essere convinto, cioè non si può salvare un matrimonio se i coniugi non si parlano più, hai capito? Certamente. Questa è la mia teoria, caro Barisoni. Ecco, come andiamo? Bene, la trasmissione va molto bene. Fantastico. No, molto bene. Molto bene. I titoli mondiali si pesano anche, io dico, che i quattro di Vettel sono un falso storico rispetto alla bravura di Alonso. Sono la mia lettura. Ma lei, caro Gente, è semplicistica, lei lo sa. Allora, dobbiamo essere però obiettivi. Vettel, negli anni in cui aveva un missile, che era appunto la Red Bull, questo è il soccorso che sentite che è passato per la multipla metana di Montezemolo, che all'uscita di Casalotti Boccea c'è da spostare una multipla metana, speriamo che Marchionne risponda all'appello. No, dicevo appunto che Vettel, quando ha avuto un missile, è sempre stato perfetto, questo gli va riconosciuto. Ma chi dice il contrario? Prendi l'ambito di ieri. Con la storia delle gomme non cambiate quando è entrata la safety car, praticamente i Mercedes si hanno detto: Ciccino, ti devi fare 30 giri da qualifica, hai una macchina fantastica. Bastava che lui facesse il minimo errore, avrebbe perduto la gara. Sì, allora, questo va riconosciuto all'Hamilton di ieri e al Vettel di un quadriennio. Poi, se dopo vogliamo cominciare a dire, ma in valore assoluto, no? Alonso o Vettel, dato che tanti parlano di uno scambio, io qui proporrei la colonna sonora Renato Zero, il baratto, no? Se ti do un favore, che mi dai? Se ti do un molare, allora, io credo che anche Vettel sia un grande pilota. Poi dopo è legittimo che tu possa dire, ma Alonso ne ha di più, questo. Però finché non li mettiamo sulla stessa Senti, lettura, ma fanno ma banalizzando si scambiano le figurine? Questo non lo so, perché sai, qui ci sono di mezzo gli avvocati, i contratti. Allora, da un punto di vista tecnico, per capirci, Fernando ha ancora 2 anni di accordo con la Ferrari, e per uscirne, liberarsi, o per mettersi in quiescenza, come direbbe Barisoni, per 12 mesi oppure per passare alla McLaren Honda, comunque gli serve l'ok dell'uomo col maglione, cioè di Marchionne, non è che possa dire, e lui ce l'ha un contratto, ma ce l'ha anche Vettel di là per 1 anno, quindi è un intrigo abbastanza anche divertente, devo dire, che farà ingrassare i legali delle parti, le parcelle, queste cose, hai capito? Lì non c'è l'articolo 18, ecco, questo non so come la pensi Barisoni. Glielo chiederemo. Articolo 18 non c'è. Se Barisoni volesse chiamare, poi io posso intervenire anche sull'argomento. Tanto la coda si allunga. Sono appena con mano. Purtroppo Raikkonen non riesce a accelerare perché manca la potenza, la power unit della Ferrari. Voi lo sapete, intanto mi sei mancato moltissimo. Ma sapessi tu, fuori di andare in giro a svacanzare negli Stati Uniti, ho sofferto la tua assenza in una maniera terrificante. Venerdì scorso a Maranello delle scene bellissime, c'erano tutte e due, c'era Marchionne, ma c'era ancora anche Montezemolo. Quindi l'ufficio del presidente era occupato da Montezemolo. Marchionne fino al 13 ottobre deve stare in un ufficetto di vicino, hai capito? Un corridoio. Insomma, Ma sì, delle cose, sai quando si vedeva là il ragioniere Fantozzi, Filini, lei compra ma, questo, compra quello. Dottor Turini, ma cosa fa Marchionne alla Ferrari secondo te? Cioè lui arriva e fa che cosa? Cioè, allora, spiegami. Penso alla roba. Intanto Marchionne ha preso a pretesto il pessimo andamento del reparto corse della Ferrari per liberarsi di Montezemolo, che per ragioni aziendali, di gruppo, dinastiche persino, evidentemente era diventato scomodo, perché lui ha detto nel weekend di Monza, tu lo ricorderai, non possiamo andare avanti con due piloti campioni del mondo e una macchina che va così piano. Ma voglio dire, Montezemolo non è l'allenatore di calcio, né Rafa Benitez, no? È da 23 anni il presidente di un'azienda che è il simbolo italiano più famoso nel mondo, che tra l'altro va benissimo, che fa centinaia di milioni di euro di utile, come ti potrà confermare Barisoni. Quindi loro volevano toglierselo dai piedi, adesso ho detto qua una finezza in stile Sole 24 Ore, e hanno usato la Formula 1. Dopodiché credo che Marchionne abbia capito di aver esagerato, non a liquidare Montezemolo, ma nella dichiarazione dobbiamo vincere subito, perché già dopo 10 giorni, se hai fatto caso, sì, il futuro presidente ha detto ma per salire sul podio ci vorrà molta pazienza, per salire sul podio ci vorrà molta pazienza. Il che significa che forse Mattiacci, che quando è arrivato in Ferrari ad aprile era biondo, oggi ha tutti i capelli grigi, anche questa è una cosa cromatica che colpisce, no? Mattiacci deve avergli spiegato che non è così semplice, non è che dici cambiamo il presidente, poi sostituiamo due BL, certo, e andiamo davanti alla Mercedes, è una roba un pochino più faticosa, sì, la Formula 1. E non puoi neanche comprare un centravanti che ti risolve la situazione, sappiamo. Bravo, anche questo. Bravo. Sappiamo, io sai che lo dico da sempre, cioè il credere che la Formula 1 sia come il calcio è molto bello per la popolarità, diciamo così, della materia, no? Perché la Formula 1 è come il pallone, al bar a lunedì mattina ne parlano tutti, no? Enzo Ferrari usava una metafora bellissima, diceva questi straordinari ingegneri del lunedì che dopo la corsa mi vengono a dire cosa abbiamo sbagliato. Dimmelo al venerdì che facciamo prima, no? Bravo, bravo. Che magari proviamo a fare qualcosa. Invece in Formula 1 adesso la Ferrari deve recuperare 2 secondi al giro alla Mercedes, per cui qui Marchionne hai voglia di fare la spola Detroit, Torino, Maranello, cioè 2 secondi al giro in Formula 1, lo dico per Barisoni che non è competente in materia, ma sono come lo spread a 500 punti, fanno scendere fatica. Grazie Leo, ti abbraccio fortissimo. Attenzione a Casalotti Boccea, la multipla al metallo di Montezemolo ferma in panne. Meno male che non è in fiamme, per il momento è solo in panne. Solo in panne. Le poi vediamo. Leo Turrini, un grazie. Un grande abbraccio. Un grande abbraccio anche a te. Ciao. 800240024, signori miei, venghino. Giuseppe Campobasso, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno. Ciao. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo ritornare su Milan-Juve. Io credo che il merito della vittoria sia stato proprio di Allegri. Tutti si aspettavano la Juve con una difesa a 3 contro i 3 attaccanti del Milan e lui si è presentato invece con una difesa a 4. Io credo che abbia limitato molto il Milan, al contrario Conte negli anni scorsi con la difesa a 3 soffriva molto le squadre che giocavano con 3 attaccanti, e quindi volevo sapere un tuo parere. Poi volevo anche chiederti una cosa, sì. Se alla Juve servono due ali che saltano l'uomo, perché Lichtsteiner e Samoa non hanno il dribbling. No, però c'è Evra che l'abbiamo visto anche in Champions League. Evra e Lichtsteiner hanno fatto un'eccellente partita da questo punto di vista. Credo che la Juventus di esterni ne abbia, non so se a sufficienza, ma ne abbia. Quindi per sviluppare quel tipo di gioco che in teoria sarebbe una variante, no? Perché una volta che rientrerà l'intero centrocampo titolare, allora potremo vedere una Juventus diversa. Certamente Allegri ha dei meriti per la vittoria a San Siro, ha sistemato bene la squadra, la Juventus ha giocato una partita non eccezionale ma di grande personalità, e questo è quanto. In questo c'è anche merito di Allegri, certamente. Fabrizio Livorno, buongiorno. Sì, buongiorno. Io invece volevo parlare un attimo dell'Inter di Mazzarri, nel senso che non credo abbiamo l'obbligo così impellente di giocare tatticamente tutte le partite. Non credo sia un campionato che sarà complicatissimo lottare dal quarto al sesto posto per l'Europa League. Quindi mi chiedo il perché di tanta tattica quando tra le due trasferte fatte, quella di Torino la prima e quella di Palermo ieri, se avessimo giocato sempre con la squadra a trazione anteriore, perlomeno una delle due l'avremmo vinta, eravamo a 6 punti invece che a 5. Magari poi con gli episodi una la perdevamo o magari potevamo anche pareggiarla. Volevo sapere cosa ne pensavi. Ma non è detto, secondo me sono due partite diverse, quella di Torino e quella di ieri a Palermo. La valutazione complessiva sta nel fatto che l'Inter è una squadra comunque in crescita. È una crescita a fasi alterne, come è normale che sia. Ieri è risultato evidente l'errore di Vidic. Non ha giocato una così pessima partita. La sensazione è che Mazzarri debba ancora trovare una corretta chemica di centrocampo e in questo un corretto equilibrio della squadra. Quindi questa è la mia sensazione. Non sarei però così pessimista riguardo all'Inter e al suo processo di crescita. Un pizzico, un pelo di pazienza io glielo darei, un pizzico di credito io glielo darei. Borsa, non voglio vedere gente in settima posizione, in dodicesima, sono cose che a me non interessano. Thank you. Tutti convocati a Milano, aspettiamo più spesso anche il giovedì. Basta. Ma se poi non fanno quello che dico io se non fanno quello che dico io, dove andiamo? Dice Silvio Berlusconi. Dice Inzaghi invece in conferenza stampa, sapete c'è il tour infrasettimanale, domani il Milan torna in campo, quindi poco fa Inzaghi ha parlato in conferenza stampa, gli è stato chiesto: ma allora come reagisci, come rispondi a queste parole del presidente? Ma sulle frasi del presidente, da quando c'è il Milan le frasi del presidente non si commentano, per cui io sono il primo che avrebbe voluto regalargli una vittoria contro la Juve come i nostri splendidi tifosi che sono stati fantastici. Le parole del presidente non si discutono, fate i bravi, non mi rompete le scatole, ha ragione su tutta la linea, poi domani vediamo e sentiamo. Francesco Brescia, buongiorno. 800240024 per intervenire al lunedì di tutti i convocati. Mi sembra che i temi siano tanti, no? Tra promossi e bocciati, mi sembra anche che il quadro di questa terza giornata sia chiaro. Juventus e Roma sono le due squadre più forti ma anche più ricche, perché come è stato giustamente sottolineato per la prima volta forse nella storia recente del calcio, la Roma è seconda in classifica al monte stipendi, per quanto riguarda il monte stipendi. Il Milan, l'abbiamo detto, non si è giocato nemmeno la chance dell'entusiasmo e si è consegnata a quel signore fortissimo che doveva vestire la maglia rossonera, che ha giocato con, questo mi sorprende in maniera pazzesca, che ha giocato per 70 minuti con il ciuccio del bambino infilato nelle mutande. L'Inter, ne stavamo parlando, cresce a singhiozzo, non mi sembra il caso di essere preoccupati. Nemanja Vidic è sempre stato un eccellente difensore centrale, è un po' in là con gli anni ma non può essere improvvisamente diventato un brocco. Il Napoli singhiozza e basta. Intanto, questo è un altro aspetto, le solite leggerissime squadre dell'Est, Verona e Udinese, si infilano nelle prime file della classifica. Prime file, Verona terzo a 7 punti e l'Udinese insieme al Milan con 6 punti. Alberto da Bergamo, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie per la convocazione. Volevo precisare pochi punti, visto adesso non ho sentito tanto altri ascoltatori. Era in merito a quello del tifoso juventino che diceva insomma che era troppo facile per Allegri prendere la Juve come una macchina già funzionante. Vorrei dire che, a parte che sono anticontiniano per natura, però c'è da dire che Allegri, bisogna mettere in considerazione che ha cambiato il metodo di gioco. Mi scusi, sono un po' emozionato. Ma che emozionato! Ha cambiato un po' il metodo di gioco, ha cambiato il metodo di gioco di Tevez, l'ha portato un po' più lontano dalla porta. Sta giocando con senza Barzagli, che per Conte era indispensabile, perché numeri alla mano senza Barzagli prendeva gol a destra manca. Sta rivitalizzando Gbon, che comunque era un caso disperato alla Juve, ha rivitalizzato gli Steiner che stava facendo ormai muro per andarsene a fare ricorsi con Conte. E ricordiamoci che ha giocato a San Siro senza Vidal, senza Pirlo, quindi comunque non è facile che se una comunque si parla della Juve e anche se Conte ha fatto quello che ha fatto, non è sicuramente semplice avere una macchina che va da sola. Certo. Poi per chiudere, per quanto riguarda Inzaghi, secondo me poteva, visto che anche lui ha un profilo modello Conte come storia di allenatori, come allenatore, secondo me poteva giocarsi tutto sull'ali dell'entusiasmo, visto che, come diceva lei, ha la fiducia incondizionata del pubblico e della società. Sì, perché arrivava da due vittorie consecutive, aveva entusiasmo, poteva, insomma, poteva. L'avrebbero perdonata, anche magari un 3-4-0. Bravo, l'avrebbero perdonata. Esatto, perché l'avrebbe giocata fino in fondo. Magari ha avuto paura di steccare e alla fine forse ha steccato. Però complimenti ad Allegri e ribadisco, secondo me sarà più difficile per noi il campionato, lo dico a tutti i giuventini, perché punteranno molto almeno arrivare ai quarti di Champions. Sarà un'impresa e ci porterà via molte energie. Non è da sottovalutare ovviamente che la Roma è tanta roba. La Roma è tanta roba davvero. Emotional, intense, all the way through the game. Is that what makes the Premier League a little bit different? You know, the Premier League is in this moment, I think it's not just different, I think it's crazy. Cerca proprio Miller in area di rigore, la rimette in mezzo a Lampard! Frank Lampard! Eccolo qui il disegno del sceneggiatore della partita! Frank Lampard va a punire il Chelsea e dà il pareggio al Manchester City. Rafael legale il contatto, ancora Vardy, rinviene su di lui. Rafael, calcio di rigore. Van Nugent, potente, centrale, 2-3. Arriva Cambiasso! Esteban Cambiasso! 3-3 al 64esimo! The Light per Vardy, posizione regolare. Vardy tutto solo, Vardy! Jamie Vardy! 4-3! Intervento Blackett ed è calcio di rigore. Calcio di rigore per il Leicester. Ushua, 5-3, doppietta di Ushua, impazzisce il pubblico del Leicester, è 5-3. Emotional, intense, all the way through the game. Is that what makes the Premier League a little bit different? You know, the Premier League is in this moment, I think it's not just different, I think it's crazy. Premier League is crazy, it's really crazy Premier League. Nicola Ruggero da Fox Sport, ciao Nick. Buongiorno, buongiorno fratelli ascoltatori. Senti, ma io vorrei partire da Lampard, giocatore in partenza, giocatore a tempo determinato che segna contro il Chelsea, è una classica un grande classico del calcio, però non posso non parlare dello United e di quello che sta succedendo allo United, perché è il mistero più buffo del calcio di oggi, di questo momento. Cominciamo dallo United allora? Sì, direi di sì. Ma direi nessun mistero, lo United è come una bellissima donna, e almeno una bellissima donna dalla cintola in su, dove diciamo è tranquillamente Michelle Pfeiffer, e invece dalla cintola in giù è, senza offesa per nessuno, una lottatrice da wrestling, ma non di quelle carine di oggi, quelle insomma di un tempo più, diciamo così, villane, ecco, meno attente al look e alla loro grazia. Ecco, questo è lo United, per cui è una squadra che segna 3 gol sul campo del Leicester, che gioca una bellissima partita per 60 minuti, e poi però sfortunatamente c'è anche la metà campo in cui si difende, e quella metà campo lì di fatto è vuota, nel senso che lo United ha speso tutti i soldi per giocatori offensivi, con i risultati che si stanno vedendo. Per me francamente non c'è molto mistero in una stagione così negativa. Sì. Non mi sorprende, ecco, forse adesso si sta andando anche al di là, ma era abbastanza atteso che lo United non potesse lottare con quella squadra così mal costruita e nonostante fosse così caro dal punto di vista economico con le migliori. Ma quindi adesso? Ah, adesso credo ci sia poco da fare, almeno fino a gennaio, perché non ci sono, non c'è possibilità di fare altri acquisti. Sì, tornerà adesso Jones, che però è un ragazzo di grande cuore, diciamo un grande cursore di centrocampo, che Ferguson ha reinventato difensore, ma certamente non può far lui fare il salto di qualità a una difesa che ha molti limiti, e per giunta ci sono stati anche parecchi pasticci, perché lo United ha preso un difensore che era Shaw dal Southampton, un ragazzino di 19 anni, classe 95, già un anno e mezzo di Premier alle spalle, già convocato in nazionale inglese, un acquisto importante ed era un acquisto giusto. Si vede che non piaceva a Van Gaal, però lo stesso ruolo gli ha preso Rojo, per cui adesso Shaw si guarda le partite dalla panchina. È francamente una follia per un giocatore che è costato 30 milioni di sterline di 19 anni. Quindi a pasticci si sono aggiunti pasticci, per cui non penso che lo United riuscirà ad uscirne. Non so come uscirà Van Gaal, che però mi sembra di quelli che non accettino molto i bagni di umiltà e prosegua dritto per la sua strada. Vedremo quanto lo sopporteranno. Secondo te, onestamente, le colpe specifiche del mago olandese quali sono? Le colpe sono che ha avuto a disposizione un budget strepitoso, credo siamo intorno ai 130 milioni di sterline speso male e per colpa sua di euro. Quando uno ha Van Persie non compra Falcao, o perlomeno compra Falcao se decide di vendere Van Persie. Ieri ha dovuto giocare con Van Persie, Rooney, Falcao e Di Maria, e non ha potuto aggiungere anche Mata, che uno è arrivato a gennaio scorso per 38 milioni di sterline, perché la squadra non aveva più il minimo equilibrio. Ripeto, meraviglioso a vedersi, cioè quando questi hanno la palla tra i piedi, giocano in attacco, è come per un appassionato di arte vedere la Cappella Sistina o il Davide di Donatello o la Primavera del Botticelli. Dopodiché però si volta il quadro e dall'altra parte ci sono degli scarabocchi orrendi. Sì. Allora Nick, dammi un attimo di pazienza per il traffico, il palinsesto lo conosci bene, e poi passiamo sull'altro fronte, cioè quello di questa strana bella partita tra City e Chelsea. All'uscita dell'altezza di Casalotti Boccea c'è una multipla a metano in panne, è quella che la Fiat ci ha fatto sapere che Montezemolo lo può ancora usare per un anno, auto di servizio, forse avete letto il comunicato. Convocati. What? It was just a dramatic end with Lampard scoring. I mean, dramatic why? Because he used to play for Chelsea for 13 years and scored 200 goals. For Chelsea, and Suarez used to play for Liverpool and plays for Barcelona. What's the drama of the situation? For me, there is no drama. I'm sure you talked at some stage last year of wanting to keep Frank when he signed, particularly for Manchester City. I don't speak about players from other teams. I'm sorry. To speak about Frank is to speak about my past. Avete riconosciuto Mourinho, no? Nicola Ruggero, l'hai riconosciuto, no? No, l'ho riconosciuto. E Mourinho è straordinario, perché è riuscito a dissimulare tutto. Ha detto, perché vi sorprendete? È normale, Lampard giocava nel Chelsea, adesso gioca nel Manchester City. È come Suarez, che giocava nel Liverpool, adesso gioca nel Barcellona. È vero, da un punto di vista logico. Il problema è che Suarez ha giocato nel Liverpool 2 anni, Lampard ha giocato nel Chelsea per 13 e fa parte della storia di questo club, di cui è il miglior allenatore della storia. È chiaro che ieri vedere c'è un Lampard che insomma sembrava mai un semipensionato destinato a giocare a partire dalla prossima stagione, dal prossimo anno solare nella Lega Nordamericana, è stato al City per 6 mesi, vederlo entrare in quella situazione con il Chelsea avanti 1-0, per giunto in vantaggio di un uomo, in una situazione disperata, e segnare proprio al Chelsea, è stato un mix di sentimenti straordinario. Io credo che gli stessi tifosi del Chelsea, che ieri a mio parere hanno dimostrato il perché sia molto bello vedere una partita di calcio in Inghilterra, perché si respira della sportiva, sono stati ovviamente delusi per il fatto che la loro squadra non ha vinto, però in fondo in cuor loro hanno visto ancora una volta segnare Frank Lampard. L'ha fatto 211 volte con la loro maglia, gli possono perdonare il 212esimo contro. Sì, certamente, sono d'accordo con te. Nicola, invece, tornando di taglio verso lo United, non una grande idea quella del numero 45 del Liverpool, che non si risparmia mai alcun alcun tweet, e dall'alto di una meravigliosa sconfitta 3-1 con il West Ham e con un Liverpool che non ha per niente una bella faccia, scrive Manchester, che risate. Allora, innanzitutto scopriamo subito il campo da una cosa. Gli insulti che sono stati poi rivolti a Balotelli sono schifosi, sono razzisti, sono totalmente inaccettabili, e spero che la polizia inglese riesca a individuare e a perseguire le persone che si sono permesse di scrivere quelle cose. Quindi compriamo il campo da questo lato della vicenda. L'altro lato è quello che dicevi tu. Uno che perde 3-1 sul campo del West Ham. Uh-huh. L'unica cosa che riesce a fare di significativo in partita è una semirissa col portiere avversario. Uh-huh. Prende un giallo, uh-huh. Non ha ancora segnato in Premier, ha fatto un gol, si è importante con Ludo Gore. Uh-huh. E dopodiché si permette di prendere in giro gli avversari. Esatto. 5-3, francamente, da che pulpito, a parte che francamente un professionista, a mio parere, non ma come ti può venire mai in mente? Cioè, ma come no, ti può venire in mente? Mai usare delle parole contro un rivale, perché non ha senso a livello di sfottò, ma dire che risata uno che perde 5-3 dopo che ha perso 3-1, e allora abbiamo riso tutti insieme. Certo, abbiamo riso, ci siamo fatti tutti delle sane grasse risate, Nicola. Purtroppo la verità è che quando lui mette le magliette Why Always Me, Why Always Me, perché è sempre lui che si mette nei guai da solo. Io scriverei dietro la risposta. potrebbe essere un level vague. Why Always Me? E dietro, ognuno apriamo un concorso sulla risposta. Apriamo un concorso via Twitter su quale potrebbe essere la risposta che sta scritta dietro. Grazie, Nick. Grazie a voi. Ciao, un abbraccio. Chiudo con gli ascoltatori. 800240024. Uliones salda il debito con il fisco. L'ex presidente del Bayern Monaco ha restituito oltre 30 milioni di euro. Carmine Avellino, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi convocato. Grazie a lei. Salve, io chiamavo per commentare un po' l'esultanza di Florenzi. Sì. Sono tifoso della Roma e ho apprezzato il gesto. Sì. Ne vorrei approfittarne per lanciare un piccolo messaggio magari al tizio di turno che va allo stadio con cattive intenzioni. Quello per me è un messaggio positivo per invitare le famiglie allo stadio, perché io credo che quello di cui abbiamo bisogno è appunto avere un ambiente pulito, queste espressioni così semplici ma molto molto positive, almeno sì, così sì, sì, anche se io, anche se io. Ci sono anche se io sottolineo sempre ci sono vabbè questa esultanza non possiamo sempre fare delle eccezioni. Questa esultanza è stata eccessiva, ha preso un giallo, pagherà la multa, bene così, è stato un episodio da libro cuore calcistico, eccetera eccetera. Detto questo, non ricominciamo con e tolgo la maglietta perché mia zia è guarita, e tolgo la maglietta perché mia figlia ha il primo giorno di scuola, perché questa storia di prendere delle ammonizioni che sono tutto sommato gratuite, che costano comunque dei soldi in varia misura alle squadre, che costano comunque delle giornate di squalifica, eccetera eccetera, a me in generale non piace. Se poi vogliamo giustamente considerare questo gesto di Florenzi, questa arrampicata di Florenzi alla Pat Cash, l'ho ricordato prima all'inizio, non gesto inedito, ricordiamo Pat Cash, Wimbledon 78, questo pazzo tennista neozelandese, dico bene, o australiano, Parkesh, neozelandese, che si arrampica, playboy inveterato, si arrampica sulle tribune, va a baciare la bellissima moglie e vabbè, non c'era un arbitro con il cartellino, non c'era una multa da pagare e così via. È stata un'esultanza fuori dalle righe, molto particolare, bella, nessuno sta a reprimerla, non l'ha fatto neanche la Roma. Adesso però che non ricominci la sarabanda delle magliette levate con le scritte sotto e dell'esultanza sotto la curva, non si può fare, e prendere delle ammonizioni in quel contesto lì, secondo me, è in valore assoluto stupido. E australiano Parkesh, appunto, avevo visto giusto, come al solito. Vittorio Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno, senta, grazie della convocazione, ci tenevo moltissimo. Senta, io ho sentito parlare in questi giorni del Milan che ha dimenticato in fretta lo scudetto di Allegri, insomma, ecco, io volevo ricordare una cosa, che se non ci fosse stato il furto del gol di Muntari, Forse, e allora gli scudetti di Allegri sarebbero stati due. E la Juventus il triplete, come lo chiamano? meno uno. Meno uno. Come la pensa questo? Io la penso che la storia del mondo potrebbe essere molto diversa, non solo se per l'episodio del gol di Muntari, ma per molte altre circostanze che si sono o non si sono verificate in una serie di sliding door epocali, e certe volte sono capitate addirittura delle guerre, certe volte delle paci, dei matrimoni, insomma è successo di tutto nella storia. Sono tutte cazzate. È successo di tutto nella storia del mondo. Se il gol di Muntari fosse stato convalidato, il Milan avrebbe uno scudetto in più, magari Allegri sarebbe ancora al Milan, Conte ancora alla Juventus, la Juventus avrebbe uno scudetto di meno, oppure forse no, perché nelle ultime giornate sarebbe di nuovo cambiato tutto in un proliferare di sliding doors. Ragazzi, non lo so. Gol di Muntari non l'hanno dato, questo è ufficiale, siamo tutti d'accordo, va bene, a domani. Franco Piantini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, Claudia Schiattoni in redazione, ciao. Misty, thank you. Ora, molti di voi penseranno che il giocatore più pagato di una squadra della National Football League sia il quarterback, e avrebbero ragione. Ma quello che forse non sanno è che di solito il secondo giocatore più pagato, grazie a Lawrence Taylor, è il tackle sinistro. Perché, come sa bene ogni donna di casa, il primo assegno che stacchi è per il mutuo, ma il secondo è per l'assicurazione. Ideale per un tackle sinistro è essere bello grosso. Il tackle deve avere fianchi possenti e cosce massicce, avere braccia lunghe, mani enormi e piedi veloci come un singhiozzo. Una combinazione rara e quindi costosa, la cui importanza si può misurare in quel posticipo del lunedì sera e in Lawrence Taylor, perché da quel giorno lui non solo cambiò la vita di Joe Theismann, ma anche la mia.